Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È lunedì 16 di luglio 2012, è un luglio molto caldo ed è un luglio in cui raccontiamo più storie del normale. Raccontiamo più storie perché questo è il meglio di Voi siete qui. Voi siete qui è un programma, per chi magari non l'avesse mai sentito, è un programma in cui raccontiamo delle storie realmente accadute agli ascoltatori. Dalla scorsa primavera abbiamo cominciato a chiedere a tutti quelli che avessero voglia di partecipare un racconto in una pagina che raccontasse un episodio della loro vita. Ci sono arrivati un sacco di racconti e li abbiamo raccontati durante la scorsa stagione, da settembre fino a giugno. Questi sono i migliori, o una parte dei migliori, in onda tutto il mese di luglio. Sono due racconti a puntata. Il primo è quello che sentirete a breve, il secondo dopo la borsa. Noi però continuiamo a settembre, quindi se anche ad agosto avete tempo libero, avete voglia di scriverci, voi siete qui, @radio24.it. Un episodio realmente accaduto che racconti qualche cosa di voi. Qualche tempo fa, quando chiedevamo questa cosa a tutti gli ascoltatori cominciavano ad arrivarci dei racconti, c'è arrivato uno tra questi che si intitolava Scaccomatto al KGB. Io adesso, visto che spesso se ne parla senza poi realmente sapere che cos'era il KGB, se no insomma una polizia russa, e si pensa sempre alla cortina di ferro e alla guerra fredda quando si pensa al KGB. Allora, KGB sta per Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. Questa è la più o meno, diciamo, definizione del KGB, mi perdonino tutti i madrelingua russi o anche solo quelli che non sanno appena, che sta per Comitato per la Sicurezza dello Stato. KGB era il nome della principale agenzia di sicurezza, servizio segreto e polizia segreta dell'Unione Sovietica, attiva dal 13 marzo 1954 al 6 di novembre, ovviamente, 1991. Tutto questo per introdurre il racconto di oggi, che è scritto da Roberto. E dunque, per ascoltarlo dovete fare una cosa, dovete immaginarvi un uomo normale che compra un televisore di seconda mano, russo. Comincia a vederlo, il televisore è un piccolo problema, vuole aggiustarlo, nessuno ha il pezzo di ricambio e lui, per andare a trovare quel pezzo di ricambio, si infila in un giro di robe in cui il protagonista di questa storia insieme a lui si chiama Boris e subito rimanda a quel periodo lì, alla cortina di ferro o al KGB. Il tutto però nella testa di Roberto. Venuto a conoscenza dei russi in transito, visto che ero appassionato di fotografia, andavo spesso nei luoghi dove si radunavano per vedere cosa avevano da offrire. Un sabato mattina mi trovavo nei pressi di via Sannio e notai sotto le mura aureliane un brulichio di persone. Pensai tra me e me, chissà che oggi non ci siano i russi. Ed erano proprio loro. Lungo il marciapiede una ventina di russi esponevano le loro mercanzie, oltre alle ben note macchine fotografiche vendevano lenzuola, utensili, eccetera. Notai tra l'altro che alcuni russi vendevano dei televisori, sia a colori sia in bianco e nero. Uno in particolar modo aveva con sé un simpatico piccolo televisore a 6 pollici, proprio in bianco e nero. Vedendo il piccolo TV, restai subito incuriosito. Sapendo che lo standard Secam era incompatibile con quello adottato in Italia solo per il colore, pensai subito che il piccolo TV, essendo in bianco e nero, poteva consentirmi di conciliare interessi per i programmi TV con la stanchezza serale, ponendolo quindi sul comodino della camera da letto. Avrei potuto assistere ai programmi di mio interesse in pieno rilassamento. Il televisore era proprio nuovo. Il libretto di garanzia indicava in poco più di un mese la data di uscita dalla fabbrica. Lo comprai. Giunto a casa lo provai subito. Era compatto e stava proprio bene sul comodino vicino al letto. Le immagini erano ottime, si vedevano molto bene e potevo sintonizzarmi su numerose TV private utilizzando l'antenna in dotazione. Compravo macchine fotografiche usate e o apparecchi radio usati. L'obiettivo mio stesso era comprare oggetti radio o macchine fotografiche e cercare di ripararli. Il televisore era un gioiello, funzionava benissimo. Passati alcuni mesi, forse un anno, una sera accesi il Silielis, così si chiamava, e una volta entrati in ascolto notai che le immagini video stentavano ad arrivare. Accesi e spensi più volte l'apparecchio, ma nulla da fare, nessuna immagine. Il piccolo TV Color, pur continuando a funzionare perfettamente in audio, aveva interrotto le trasmissioni video. A questo punto mi misi alla ricerca di qualcuno che avrebbe potuto aiutarmi ad aggiustare il televisore, senza però spendere cifre esorbitanti. In un laboratorio vicino a casa notai in riparazione uno dei TV a colori venduti dai russi. Entrai. chiesi se era a conoscenza della diversità di standard tra i due paesi e se sarebbe stato in grado di sistemare il mio 6 pollici. Lo tenne alcuni giorni. Poi una sera, passando al laboratorio, ebbi la triste e implacabile diagnosi. Si era guastato il trasformatore di riga. Uno dei pochissimi pezzi specifici di ciascun televisore. Già difficile da reperire per i televisori commerciali. Per il Sidielis era una mission impossible. Mi misi alla ricerca sentendo tutti i negozi di ricambi per TV, ma nessuno dei possibili compatibili commerciali era adattabile. Io però ero fermamente intenzionato a rimettere in funzione il televisore. Giravo con in tasca il piccolo trasformatore di riga guasto ed in qualsiasi città mi trovassi, se vedevo un negozio di elettronica, entravo e chiedevo se per caso avevano un simile pezzo di ricambio. Ma niente. Io però non mollo, lo sanno in molti che sono abbastanza tenace. Pensai allora di andare alla fonte. Non c'era internet e decisi che il bandolo della matassa poteva essere solo il consolato russo a Roma. E così feci e fui fortunato. La sede del consolato era non lontano da casa mia. Avviai i primi contatti telefonicamente. Dopo numerose insistenze, la centralinista mi fissò un appuntamento con l'addetto ai rapporti commerciali, tale ingegner Boris. Dopo le prime battute, il russo, dimostrando segni di impazienza, mi confermava l'impossibilità di poter reperire un nuovo trasformatore. Tuttavia, qualche cosa aveva incuriosito Boris. La mia insistenza, la mia tenacia, la mia preparazione tecnica, o forse una frase di troppo che mi ero lasciato scappare. Dissi: Boris, pensi che neanche la multinazionale nella quale lavoro sono stati capaci di darmi un aiuto? La parola General Electric aveva indotto Boris ad una più attenta riflessione. Cambiò abilmente il tono di voce e mi disse che avrebbe fatto un tentativo prima di darmi conferma sull'impossibilità di reperire il pezzo. Sotto le spoglie di un addetto commerciale forse si celava una delle più abili spie del KGB. Alla fine Boris mi salutava chiedendomi di ricontattarlo dopo un mese. Mi avrebbe fatto sapere l'esito della sua ricerca. Puntualmente richiamai Boris dopo un mese e con molta affabilità mi propone un incontro a pranzo. Così avremmo potuto parlare con più calma. Io accetto. Nei colloqui Boris denigrava la Russia. Noi copiamo tutto, diceva. Io di contro facevo molti apprezzamenti sulla tecnologia russa, specie per l'ottica, e sulle missioni spaziali, che mi hanno sempre appassionato. Ci salutammo con l'impegno che passato un altro mese l'avrei ricontattato per sapere l'esito della sua ricerca. Alla mia telefonata seguiva un invito a pranzo, in locali sempre diversi da parte di Boris. Nel corso dei pranzi, forse da parte sua, era in corso un'analisi sulla mia personalità e sulla mia disponibilità a collaborare. La società per la quale lavoravo non poteva non destare interesse. Tuttavia, il trasformatore di riga non arrivava. Boris è la classica figura da spia sovietica che abbiamo visto nei film. Trench, cappello, corporatura sarasava alto 1,80, 1,85, bello robusto. In quell'epoca, del resto, cosa potevano fare questi personaggi in giro delle ambasciate, che ho visto che non c'era nei consolati? Era solo per cercare di catturare informazioni in giro per il mondo. Ci fu l'ennesimo invito a pranzo. Erano ormai passati più di 6 mesi dal primo incontro. Quel giorno, ironia della sorte, ero andato in ufficio con la Fiat 500, modello di vettura fabbricata proprio in un paese dell'est, la Polonia. Saliti in macchina un po' appesantiti per il pranzo, dopo un'iniziale retromarcia per uscire dal parcheggio, agli occhi di Boris, la banale 500 apparve subito peggio dell'infernale Aston Martin di Sean Connery. Difatti, appena la vettura si mosse un po', per il peso di Boris, forse un po' per la scadente qualità dei materiali, ecco che ad un tratto il sedile sul quale era seduto il russo letteralmente si sbraca e i 90 kg di Boris finiscono tutti in posizione orizzontale. Attimi di silenzio. Lo sguardo di Boris si tinge di terrore e corre a destra e a manca su ogni lato della vettura alla ricerca di quei bracci meccanici o cinture di acciaio che sarebbero sbucati da ogni lato per immobilizzarlo, renderlo inerte, pronto per essere consegnato all'FBI. Rimase fermo, o meglio, paralizzato per alcuni secondi. Poi, vedendo il mio disappunto per il sedile rotto, con un grande sforzo sugli addominali, si tirò su. Non so se fu a seguito di una promessa fatta a se stesso in quegli attimi di terrore, tipo: giuro che se ne esco vivo, prometto di fargli avere sto pezzo di ricambio. Non lo so se fu per questo. Sta di fatto che nel successivo incontro il trasformatore arrivò. E con il trasformatore in mano e il televisore finalmente funzionante, i rapporti si interruppero. Un dubbio mi è rimasto, però. Un amico mi disse che in quel tempo i telefoni di due condomini erano stati messi sotto controllo dai nostri servizi segreti. Chissà, forse uno dei condomini ero io. Ammetto, la cosa mi lusingherebbe non poco. A счетчик щелкает. Твердила она, моя она. Да ты смеешься, друг, да ты смеешься. Уйди, пацан, ты очень пьян. А то нарвешься, друг, гляди, нарвешься. А он кричал, теперь мне все одно. Садись в такси, поехали кататься. Пусть счетчик щелкает, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться. Пусть счетчик щелкает, пусть все равно. В конце пути придется рассчитаться. Не жалко мне таких парней. Ты от греха уйди, твержу я снова. А он ко мне, и все о ней. А ну ни слова, гад, гляди, ни слова. Ударила в виски мне кровь с вином. И так же, продолжая улыбаться, ему сказала я тихо, все равно. В конце пути придется рассчитаться. Ему сказала я тихо, все равно. В конце пути придется рассчитаться. К слезам я глух и к просьбам глух. В охоту драка мне, ох, как в охоту. И хочешь, друг, не хочешь, друг, плати по счету, друг, плати по счету. So che siete lì a chiedervi chi siano questi cantanti che oggi abbiamo mandato, questi brani musicali. Li trovate come al solito, come sempre, sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Mi dicevano sia Tiziano sia Paolino Corleoni che questo cantante qua, mi ripeti il nome per piacere, Tiziano, così lo dico, Vladimir Vysotsky, è un po' il De Gregori russo, giusto? Vabbè, dico una roba, tanto chi lo conosce? Vabbè, ci saranno dei russi all'ascolto e probabilmente mi correggeranno. 349-238-6666. Ma finalmente è arrivato il momento di sentire l'uomo che io voglio sentire da quando ho letto il suo racconto, credo prima di Natale, molto prima di Natale. Roberto, pronto Roberto? Pronto, sono qui. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene. Senti, innanzitutto grazie mille e scusami se ho dovuto tagliare moltissimo il tuo racconto, che era molto lungo, era molto più lungo di così, però tu sai, insomma, i tempi sono quelli e quindi abbiamo dovuto trovare il modo. Spero di essere stato abbastanza fedele al tuo racconto. Roberto, veniamo a noi. Io non voglio chiederti quanti film di spionaggio tu abbia visto. Voglio solo sapere qualcosa di più di questo Boris. Cioè, perché tu lo descrivi come la tipica spia russa, insomma. Io, non avendo mai visto spie russe in vita mia dal vivo, volevo capire che cosa ti aveva fatto pensare realmente che questo potesse essere qualcuno che voleva ottenere delle informazioni. Ma forse, come dici tu, diciamo, il condizionamento da tutti i film che all'epoca ho visto della serie di Sean Connery, James Bond e company, compresi anche le parodie fatte da Buzzanca, che era James Bond, quindi era un po' quello. Io li definirei come personaggi, tutti anonimi ma uguali, nel senso che se cammini nella città non te ne accorgi. Poi però, se riesci a pizzicare tutti quanti, li metti insieme, sono tutti uguali, sono tutti gemelli. Però in mezzo alla gente si confondono, secondo me. Senti, tu leggi ancora, tra l'altro ti consiglio, se non l'hai ancora visto, di andare a vedere un film che è al cinema in questi giorni, che si chiama La Talpa, La Talpa. Che è tratto da un romanzo di John le Carré, ed è un film meraviglioso e parla esattamente, guarda, credo che potresti magari trarci spunto per qualcos'altro, per qualche racconto simile a questo. Il televisorino ce l'hai ancora? No, beh, ormai lo vendetti, perché poi ho deciso a un certo punto, ogni tanto cambio qualche mia idea, dico la camera da letto non ci devono essere impianti elettrici, quindi ho venduto via televisore, sveglia elettrica, tutto quello che ho potuto eliminare di elettrico, di campo. Ma perché? Per via dei campi magnetici? Per via dei campi magnetici. Perché tutto nasce dal fatto, Roberto, che tu sei ingegnere, giusto? No, non sono ingegnere, sono un tuttologo. Cioè, è già mi piace definirsi tuttologo senza fare una risata, già mi diverte, nel senso che tu hai una formazione di che tipo? Statistica, poi sono diplomato, nasco come perito agrario, sono laureato in statistica e adesso mi sto laureando in scienze naturali. A che punto sei della laurea? A metà. Ma quindi tu frequenti? Sì, sì, regolarmente, sono in pensione, quindi ovviamente ho tempo a disposizione. E quante volte vai in università a settimana? Tutti i giorni. Tutti i giorni? E quindi hai cioè ti scambi gli appunti con i compagni? Sì, sì, sì, sì, abbiamo creato pure un blog, ci scambiamo gli appunti, do assistenza per quello che posso, visto insomma qualche anno in più di esperienza ce l'ho rispetto a loro, su materie che loro non conoscono, cerco di stimolarli, è divertentissimo. Cioè, tu quindi hai rapporti quotidiani con ventenni, ventunenni, ventiduenni? Sì, sì. Praticamente nipoti. Come ti prendo? Come ti vivono loro? Con simpatia, con piacere? Ah, molto, molto. Cioè io a volte sono in giro per l'università da solo, mi vengono incontro, mi fermano, mi chiedono. Cioè perché si domandano, perché magari pensano che tu sia un insegnante. Beh, la prima volta che sono entrato in aula, sì. Sono entrato tutti in silenzio, ho detto no, no ragazzi, fermi tutti, sono come voi io. Sono come voi. Mi sono messo tra i banchi. Roberto, senti, invece un'altra cosa. Tu, di fatto, essendo tuttologo, come ti sei definito tu, sei anche un po' inventore. Cioè, perché scusami, questo marchingegno che ti sei inventato per nuotare e ascoltare la radio, questo MP3... Sì, non è che l'ho inventato, ne ho comprati alcuni già fatti, sì. Sono andati male e praticamente li ho assemblati. Sì, sono inventore, ho anche dei brevetti, quindi... Dai, dimmi un brevetto, dimmi un brevetto. Beh, un brevetto, oppure ho cercato di parlarne col vostro collega Mr. Kilowatt, è un generatore eolico che sfrutta tre proprietà della, fisiche, sì. E quindi, diciamo, è un acceleratore di velocità, un acceleratore della brezza, quindi quando arriva una brezza il generatore eolico già cammina, già marcia, a buona andatura, quindi questo è un tipo di brevetto. Ok, ok. Senti, mi dici cosa facevi invece alla General Electric quando ci lavoravi? Ero commerciale, vendevo. Ah, okay. Ero un venditore commerciale. Okay. Quindi, commerciale. Insomma, di tecnico proprio non c'era niente. Quanto è durata l'esperienza con Boris? Quanti mesi? Credo 6 mesi, il tempo che lui poi alla fine mi ha dato il trasformatorino, pensando di convincermi a fare chissà che cosa, che io non potevo fare altro, perché poi la generalità non è che avevamo nulla di particolare. Ti ha mai fatto una domanda precisa riguardo a qualcosa che voleva sapere o che ti ha dato? Lui mi disse una volta, potremmo instaurare un rapporto di gentleman agreement, dopo che mi ha dato il trasformatore. Io lo ringraziavo e lo salutavo. Roberto, faccio lo stesso con te, ti ringrazio per tutto, ti saluto. Mi dici il nome del blog che avete per l'università, se è possibile? Lo stesso che c'hai sul nome e cognome mio, tutto attaccato, con scritto punto fotoblog. Ok, dopo allora lo riguardo meglio, magari lo posto su Facebook. Grazie ancora, buona giornata. Lo trovo e l'ho mandato anche alla Margherita. Che, lei ce l'ha. Va bene, va bene. Roberto, grazie ancora di tutto. Prego, ti saluto. Ciao, buona giornata. Per sentire invece la seconda storia di oggi, qui al Meglio di Voi Siete Qui, bisognerebbe conoscere qualcosa di Christopher Hitchens. Christopher Hitchens era un giornalista, era un saggista, un commentatore e soprattutto una persona molto intelligente, oltre che critico letterario, eccetera, eccetera, che viveva negli Stati Uniti anche se era inglese. Ha scritto tantissimo nella sua vita e purtroppo è mancato il dicembre scorso, nel 2011. Bisognerebbe conoscere un po' Hitchens, perché il racconto di oggi parla di una cosa di cui lui, tra le tante, aveva parlato, uno degli argomenti che aveva affrontato, ed era la comicità rispetto alle donne. Lui aveva scritto una sorta di brevissimo saggio che diceva: perché le donne non fanno ridere? Fondamentalmente la sua risposta in brevissimo era: perché a loro non serve, agli uomini invece sì, in qualche modo sì. Lo dice benissimo lui in un pezzo che citerò a breve nel racconto, e questo pezzo è citato perché il racconto che sto per leggervi, per riproporvi, è la storia di Marta, che è un'attrice che studia a Parigi e poi adesso di fatto fa l'attrice e lavora in televisione e vive facendo ridere. Quindi lei era una sorta di incarnazione di questa quest'idea di Hitchens, per cui le donne non facevano ridere, lei dovrebbe in teoria fugare questa sua idea. La storia che sto per raccontarvi, che è la storia di Marta appunto, parla di una ragazza che deve a tutti i costi far ridere, non sa come fare, e nel non sapere come fare è improvvisamente super divertente. Parigi, anno 2006. Ieri ho compiuto 28 anni e oggi me ne sento 5. Indosso un accappatoio rosa shocking, delle pantofole e porto una parrucca riccia bionda, degli occhiali da vista e sono tristissima. Inizia la lezione aperta di clown. Lezione aperta significa che chi vuole può assistere, anche se non è iscritto alla scuola di teatro. Ed eccoli lì, seduti davanti a me. Una quarantina di persone tra i 20 e i 40 anni. La scuola si chiama École Philippe Gollier, adesso ha sede a Parigi, e l'ho conosciuta tramite degli amici che l'hanno frequentata, e poi sapevo che lui era molto cattivo e io volevo che qualcuno mi scuotesse per bene. Io invece sono iscritta, anzi sono fra i 6 iscritti che si devono mettere a schiera sul fondo della sala. Il costume ce lo siamo scelti noi. Qualcosa che ti aiuti a sentirti divertente e ridicolo, era stato il suggerimento. Io mi sento triste, spaventata, imbarazzatissima. E il mio travestimento fa schifo. E in più ho notato un figo pazzesco in seconda fila. Dunque l'esercizio è questo qui. L'insegnante ci fa delle domande, a cui noi dobbiamo rispondere nel modo più creativo e divertente possibile. Se strappiamo una risata, facciamo un passo in avanti. Chi arriva primo, vince. Dopo 10 minuti io sono ancora contro la parete. Tutti gli altri davanti a me. Il pubblico non smette di ridere. I miei compagni sono rilassati, sorridenti e ovviamente divertenti. Rispondono con giochi di parole, citazioni, strani suoni, pezzi di canzoni, ma è una banalità o un indugio. Io invece sono paralizzata e per prendere tempo cerco di nascondermi dietro a Francisco. Spagnolo, brutto, ciccione e felice. Indossa dei pantaloncini da tennis troppo stretti. È molto stempiato, ma i capelli che restano sono lunghissimi. Ecco, lui per far ridere non ha nemmeno bisogno di parlare. E poi all'improvviso, eccoci qui. L'insegnante mi ha visto. Io mi sento al liceo quando cercavo di nascondermi raccogliendo qualsiasi cosa da terra. Ehi tu lì in fondo, sì, tu vestita di rosa, vieni avanti. Sono proprio io. Io vorrei tirare fuori la giustificazione della mamma. Io che divento rossa ancora adesso. Io alla soglia dei 30 anni. Vestita da angioletto senza ali di 1,72 m. Faccio un passo. No, no, proprio qui davanti, così la pianti di nasconderti. Allora, what's your name? E io potevo rispondere qualsiasi cosa. Pink Beach, Lady Cacca, Celine Bonbon. E invece no. Con un filo di voce tremante mi esce questa risposta. My name is Marta Zoboli and I come from Italy. Dopo la scuola abbiamo formato questa compagnia internazionale che si chiamava Potato e abbiamo girato un po' l'Europa con questo spettacolo che noi non sapevamo bene cosa fosse, però la critica lo definiva un cabaret surrealista. Dopo quell'esperienza sono tornata in Italia e ho cominciato a fare dei provini e ho conosciuto le persone con cui lavorare che mi piacevano molto, fra cui Paolo Rossi. Ho iniziato con lui e poi tante cose. E in quel breve silenzio prima della risata ho proprio sentito che tutti, compreso il figo pazzesco, tutti stavano pensando «No dai, ma non può aver risposto davvero così». E invece sì, risposi proprio così. E cominciai a fare dei passi avanti anch'io. Ecco, quel giorno ho scoperto 3 cose utili. La prima è che se non hai una balla proprio bella da raccontare, è meglio la verità. La seconda è che la timidezza ha dei risvolti inaspettati. La terza è che far ridere al bar è tutta un'altra cosa. Ora i soldi per vivere me li guadagno così, strappando risate non solo al bar, anche se quelle sono sempre le migliori. Dopo aver letto il racconto di Marta, mi sono ricordato che da quando ho messo piede la prima volta in un teatro, io ho sempre sentito dire questa frase: è più facile far piangere che far ridere. E non lo so se è vero, però è vero che l'ho sentita sempre. Quando si piange si liberano degli ormoni che si chiamano prolattina. Ho letto che sono quelli che servono alle donne in fase di allattamento. Sinceramente però non saprei dire che collegamento ci sia con il pianto. Quello che so però è che le lacrime fanno sentire più liberi. È come se rompessero una barriera, no? Oltre alla quale si può finalmente andare. E quando esce la prima traccia un solco come il letto di un fiume. E le altre scorrono senza più paura. Tutti piangono, prima o poi. Da bambini e da adulti. Uomini e donne. Ho letto che su oltre 300 individui adulti, in media, gli uomini piangono una volta al mese, mentre le donne piangono almeno 5 volte al mese, specialmente prima e durante il ciclo mestruale. Piangere è molto più evidente che ridere. Si nota di più e influisce in maniera più concreta sul nostro amore. Forse perché in fondo siamo più abituati a ridere che a piangere, no? Durante una giornata probabilmente ridiamo di gusto 1-2 volte, ma non ci commuoviamo 2 volte al giorno. A meno che non siamo in periodi di grande trasporto emotivo. E Eppure l'ultima volta che abbiamo pianto ce la ricordiamo più facilmente dell'ultima volta che abbiamo riso. Riso di gusto, intendo, perché ridere è più comune che piangere, perché ridere si confonde con sorridere, con una posizione dei muscoli del viso che a volte è quasi una posa, no? È di convenienza. Eppure siamo disposti a pagare sia per ridere sia per piangere. Un sacco di persone, me compreso, sono pronte a comprare un biglietto, entrare in un cinema e vedere una storia d'amore che finisce male e che fa piangere come dei vitelli, o che finisce bene e fa comunque piangere come dei vitelli. Ma ci sono molte più persone disposte a pagare per entrare in un teatro e vedere uno spettacolo di Fiorello, ad esempio, o di Roberto Benigni. E poi ce ne sono un'infinità che la sera se ne stanno a casa e si guardano in TV dei programmi in cui ci sono persone come Marta che di mestiere fanno quello. Fanno ridere. Si può ridere in centinaia di modi diversi e per milioni di motivi, e molti comici ormai sono degli idoli, no? Sono dei personaggi che facciamo entrare nella nostra vita, sperando che la alleggeriscano un po', che la migliorino magari con una risata. Persone che magari ci piacerebbe avere come amici, che vorremmo invitare a cena, perché siamo sicuri che loro sono sempre allegri, sono sempre divertenti. In realtà non è così, o non sempre almeno, e dal racconto di Marta un po' lo si capisce. La cosa però che banalmente mi ha colpito della sua storia non è stato il costume orribile che si era scelta per l'esercizio, non è stata la sua tristezza di quel giorno o quell'effetto misteriosamente comico che ha avuto la prima frase che ha detto. Molto più banalmente, la cosa che mi ha stupito di più è il fatto che lei sia una donna. Le donne non vogliono far ridere. Le donne vogliono essere intelligenti, vogliono far valere i loro diritti, vogliono sedurre, ma non vogliono far ridere. Sì, lo so. Sto generalizzando, lo so. Solo che ogni tanto faccio questo esercizio di proposito. Generalizzo per vedere cosa succede. Ad esempio, adesso, se immaginate le donne che vi circondano abitualmente, ma anche quelle che avete intorno in questo momento preciso, alle 16:19, pensate davvero che il loro primo desiderio sia quello di essere divertenti? No. Perché un uomo che ride di una donna non è attratto. Non voglio dire che tutto abbia sempre a che fare con il sesso, no, ma con la conquista, quello un po' sì. E se gli uomini usano l'umorismo per conquistare le donne in genere usano altro. Quando ad un uomo chiedete com'era la ragazza che ha incontrato, con cui è uscito, se lei non era bella e lui vuole evitare di essere volgare, vi risponderà: no, beh, era simpatica. Insomma, le donne non vogliono far ridere perché non ne hanno bisogno. Io non lo so perché Marta abbia deciso di fare la comica invece che la modella o la commercialista. Forse aveva bisogno di far ridere qualcuno, o forse aveva bisogno di avere un'arma in più per la sua battaglia quotidiana.